Eccoci, benvenuti a questo sesto episodio del nostro podcast su... Sesto? Ah sì, sesto, no? Vero. Giustamente, del nostro podcast su videogiochi e game design in generale, il nostro focolare elettrico. E di che cosa parliamo oggi? Bella domanda. Non lo... Beh, so. Potrete notare dal titolo il podcast, l'episodio si intitola Kill 10 Wolves. Un titolo che rappresenta la classica quest che si ottiene nelle prime ore di gioco in un qualsiasi MMO. Esatto, non vogliamo incitarvi a uccidere animali, a fare violenza sugli animali, è solo così. Un l'ennesimo riferimento, diciamo. Ed è proprio di questo che parleremo oggi, ovvero sistemi di quest. E quindi direi di partire spiegando cos'è una quest. Jacopo, giusto? Sì, allora in realtà io questo episodio per tipo 3 volte di fila ho pensato parlasse di sistemi di avanzamento del personaggio, ma quello sarà un altro episodio. Beh, nel senso... Di level up. Mm-hmm. Ok. Siamo ancora in tempo a cambiare tutto. No, vabbè, adesso cioè, alla fine ho capito, tipo una settimana fa mi sono ricordato che era un'altra cosa, quindi l'altro me l'ero pure scritto per ricordarmelo qua su OneNote. E, no, allora, cos'è una quest? Una quest è un... come dire, è una serie di... come posso dire? Di attività che un personaggio deve terminare per raggiungere un obiettivo. Una quest è un percorso che il personaggio percorre, non so come dirlo senza ripetermi, per arrivare a questo obiettivo. Quindi di solito è un obiettivo più o meno chiaro ed è e contiene una serie di passi più o meno banali per raggiungerlo. Mm-hmm. Questa diciamo è la versione più banale che mi viene in mente, cioè perché la definizione più vera e propria non so da dove viene il termine quest, forse da question o da non lo so, di solito è associata... L'origine del termine non lo conosco nemmeno io, ma quest è una parola inglese appunto che significa ricerca, intesa come viaggio. Esatto, sì, infatti di solito è associata a tipo la ricerca del Santo Graal, la ricerca di qualcosa anche di astratto, come può essere la ricerca di una figura paterna. Cioè, non lo so, è associata a tante cose e secondo me però quella che viene trasportata nei videogiochi è quella più un po' più pratica, di magari dei sistemi più... Un altro significato che gli viene dato è missione. Okay. Esatto. Ed è proprio di questo che parleremo oggi, ovvero di come vari tipi di giochi affrontano in maniera differente questa parte della loro struttura, perché alla fin fine le quest sono quelle che ci dicono cosa dobbiamo fare in questo videogioco. E non sempre ci riescono al meglio. Esatto, non sempre. Però sì, quindi se pensiamo a... Quello che ha un po' influenzato di più il sistema di quest che c'è nei videogiochi attualmente, cioè quello di Dungeons and Dragons o roba del genere, che viene a sua volta da romanzi tipo di epica o di ricerca, cioè di avventura. Se vogliamo fare proprio i nerdoni, i classici romanzi, le più classiche storie come Il Signore degli Anelli, il portare l'anello a Mordor, era la loro missione, la loro quest. Esatto, cucinare il coniglio con le patate era una quest secondaria, diciamo. Assolutamente. Comunque molto importante, però. Sì, mm-hmm. Sì, esatto. Ma anche i romanzi, cioè roba più vecchia, cioè semplicemente qualsiasi romanzo di avventura dove c'è un viaggio, dove c'è un obiettivo, qualcosa da ottenere, da raggiungere, che non fosse... cioè che fosse relativamente chiaro, era una quest. Mm-hmm. Non per forza deve essere un obiettivo chiaro, ovviamente. Non per forza devi renderti conto che sia una quest, ne parleremo dopo. Però sì. Beh, però, come dicevi, essendo proprio questa una cosa del classico, questa idea di base, proprio dell'eroe che parte alla ricerca di qualcosa, è quello che ha sviluppato un po' tutta la branca dei giochi RPG. dei giochi di ruolo per sia cartacei, come citavamo prima Dungeons & Dragons e tutti i suoi derivati, sia quelli digitali che sono partiti all'inizio con tutti i giochi che noi ci abbiamo sentito probabilmente nominare. Io non mi sono azzardato a giocare a videogiochi testuali o Madonna con i caratteri che si muovono sullo schermo. Io l'ho giocati, ma solo ironicamente, cioè solamente tipo dentro altri giochi o... Tipo adesso su Act in Time, che dicevo prima, Marco, è un gioco tipo... Sembra un po' Super Mario 3D, sul Mario 64. C'è un gioco che tu puoi giocare sul computer di bordo della tua astronave, che è un gioco testuale. Cioè tu dici, vai a sud, vai a nord, abbaia, dove sei un cane, abbaia... Usa la spada come cane, cioè cose così stupide, tutto molto ironico. Però sì, esatto, fin dall'alba, insomma, di videogiochi c'era un po' questa quest nei giochi, specialmente nei giochi appunto di avventura fantasy single player, cioè giocatore unico, giocatore single. E quindi sì, volevo un attimo prima di passare a quelli che sono i nostri esempi più, magari li usiamo nel frattempo, però prima di arrivare un po' a degli esempi egregi, a delle quest che ci sono rimaste particolarmente, come si dice, impresse, almeno per me, volevo un attimo prima definire in generale quali sono i parametri di una quest dal punto di vista del design e dal punto di vista del giocatore, cioè cos'è che il designer deve considerare quando fa una quest, perché non può semplicemente pensare prendi l'anello, vai. Cioè, esatto, non puoi... Vogliamo continuare la metafora. A questo punto, con il controller in mano, sappiamo i comandi, abbiamo il nostro personaggio da comandare dopo aver customizzato come a nostro piacimento, e in questo momento ci appare un pop-up sullo schermo che ci dice quello che dovremo fare, almeno come prima cosa, nel gioco. E quali sono questi parametri che volevi dire in questo caso? Allora, prima di tutto hai già detto un parametro, cioè hai detto abbiamo imparato i comandi, abbiamo imparato, cioè siamo entrati nel gioco, abbiamo questo senso un po' anche del mondo tramite i comandi e il personaggio che abbiamo scelto o fatto, o che siamo, perché magari non possiamo sceglierlo. Adesso abbiamo un obiettivo chiaro, come hai messo tu, magari, però questo non è vero. Ovviamente, se un giocatore è particolarmente inesperto, a quanto pare, è meglio se ha un obiettivo chiaro. Ora, questo magari poi metterò nei link un video perché ne parleremo in futuro. Un giocatore inesperto non vuol dire necessariamente inesperto in generale. Cioè, un giocatore che non ha mai giocato a nessun videogioco è meglio se sa chiaramente quello che deve fare, è che sia il più chiaro possibile, così che ha più tempo da spendere sul come farlo, che è la cosa che per lui è più complicata. Però anche un giocatore inesperto per un gioco specifico, cioè non in generale per tutti i giochi, magari ha bisogno di sapere più o meno come funziona in questo gioco il sistema di quest, no? Quali sono i suoi obiettivi. Quindi, in generale, sì, è vero, molti giochi hanno quest che sono dette chiaramente al giocatore. Devi fare questo. Di solito la quest principale è rivelata all'inizio, qual è, diciamo, la narrativa principale del gioco, qual è l'obiettivo in generale del gioco, per il personaggio che stai interpretando. Quindi, tipo, nel mio esempio, che ne so, nel caso di Assassin's Creed 2, mo per fare un esempio che mi è venuto in mente perché ho letto Assassin's Creed che avevo scritto, ma in realtà non c'è un sistema di quest, in Assassin's Creed 2 non hai un vero e proprio sistema di quest, hai una missione principale e delle missioni secondarie e basta, che in realtà più o meno è un sistema di quest applicabile a molti giochi a mondo aperto, diciamo. E poi hai una terza categoria che è molto secondarie, diciamo, missioni molto falle quando c'hai tempo e non c'è un cazzo da fare perché sei un perfezionista di merda, che sono i collezionabili. Cioè, tu hai la missione principale che è, nel caso di Assassin's Creed, fai l'assassino, ammazza i templari, sono cattivi perché hanno ucciso la tua famiglia. Missione secondaria è insegui questo piccione, non lo so, cioè, sembrano metti... stronzate, però è vero. Però sono praticamente quelle, no, più o meno. Ma missione secondaria può essere, per esempio, fatti una camminata per Firenze con la tua ex. È successo pure quello. Mm-hmm. Prendi a manate questo qui perché ti sta... Cioè, non lo so, queste cose, cioè, che non sono... necessarie per proseguire nella tua quest principale, ma sono magari interessanti, danno dei... Vabbè, poi parliamo di quello che danno. L'altra categoria è molto secondaria, che sono missioni che proprio non hanno neanche a volte un obiettivo chiaro, o sono semplicemente raccogli tot di questi oggetti e sono molto a lungo termine. Cioè sono molto tipo, ah, ci sono 100 di questi oggetti sparsi per tutto il mondo, raccoglili. E cose così. Quindi un mix di queste tre categorie, che secondo me sono le tre categorie più comuni, diciamo, come importanza delle quest, di solito sono in quasi tutti i giochi. Alcuni giochi hanno solamente una quest principale, molto lineari, altri hanno una quest principale con obiettivi secondari, e altri ancora hanno tutte e tre mischiate. Esatto. Quindi questo è il primo componente, diciamo, l'importanza della quest in sé. Esatto. E già però, parlando di questo, abbiamo un po' definito qualcosa che è, diciamo, una cosa che non è... Questo abbiamo parlato dal punto di vista del giocatore, diciamo. Dal punto di vista del designer, abbiamo già definito delle cose che il designer deve tenere a mente. Cioè, questa quest, cosa ha bisogno di... Cioè, quali sono i prerequisiti per farla? Quali sono le condizioni per concluderla? Nel caso della quest principale, ovviamente non ci sono prerequisiti, perché è principale, quella come inizi il gioco, è partita, devi fare questo, ah ok, vado. Nel caso della quest secondaria, magari puoi dire, ah, se il giocatore è arrivato a questo punto nella trama, nella storia principale, ha incontrato questo personaggio, o ha fatto questa cosa, o ha questo potere, quindi ora può fare questa quest. A livello di conclusione, cioè di... condizioni per chiuderla, può essere, ah, il giocatore ha ottenuto 10 pelli di lupo, come nel caso del nostro titolo, possiamo chiuderla, la quest è finita, e poi che succede? C'è il discorso del reward. Ora, se vuoi ci arriviamo un po' dopo, se hai qualcos'altro da dire su questo. Sul sistema, no, direi che questi sono il componente 2 e 3, ovvero prerequisiti e... requisiti di conclusione, praticamente come si conclude effettivamente la quest, come si porta al termine, e poi si arriva al componente numero 4, che è quello più importante, che in assoluto a giudicare dall'ideologia dei giocatori che ho incontrato. Che passato, adesso solo perché sei un master e non ci dai mai niente. No, in realtà c'è dato troppo, per quello non ci dai niente. E infatti uno... puoi salvare il mondo quanto vuoi in un videogioco, però alla fine, se non mi danno la spada figa, quale ne valeva veramente la pena? Insomma. Per cui sì, quarta componente della quest. È l'elmetto di teletrasporto di Zed. Cioè è il reward, il compenso, il premio. Ora, qui... comincio ad avere più problemi, perché finché si tratta di parlare in generale di prerequisiti e conclusioni, se tutto è fatto bene, di solito non ci sono particolari problemi, particolari, come dire, cose che si sfasciano in un gioco. Cioè, è molto più facile, tra virgolette, di solito, definire prerequisiti e conclusioni rispetto ai reward, perché premiare un giocatore è difficile, nel senso bisogna bilanciare lo sforzo che ha fatto con il premio, mm-hmm, e con il punto in cui si trova nel gioco, nel contesto più grande del gioco, perché se una quest non è principale, magari è una piccola parte del gioco, ed è all'inizio, non puoi dargli l'arma finale del gioco. I primi 10 lupi e io gli do un lanciarazzi come premio, magari il gioco risulta meno interessante. Esatto, deve essere corrisposto al rischio e all'impegno che ci ha messo il giocatore, di solito. E qui ci sono dei problemi, perché come fai? Questo sinceramente io non lo so, cioè devi... non è facile da definire questa cosa di bilanciare il rischio, l'impegno con il premio. E non è facile neanche decidere il tipo di premio, un'arma, un power-up, qualcosa di meno concreto. Cioè, nel caso di giochi più moderni, più complicati, spesso i premi sono generati quando si finisce la quest, quindi non sono neanche disponibili da vedere prima, non sai quali saranno, perché non ci sono. Cioè, quando la finisci, il gioco decide cosa darti. E sono giochi spesso, vabbè, gli MMO, tipo World of Warcraft, cioè giochi multiplayer online, dove ci sono talmente tante quest che sarebbe improbabile, sarebbe impossibile bilanciarle tutte e creare dei reward statici, cioè prefissati, ma anche giochi ispirati a questi MMO, tipo Assassin's Creed Odyssey o Anthem, che è una specie di MMO, ma non davvero, Destiny 2, eccetera, dove tu puoi creare veramente delle controversie, cioè puoi fare incazzare milioni di giocatori semplicemente per come bilanci il sistema di premi, di loot e di fine di quest. In Assassin's Creed Odyssey a me ha fatto incazzare particolarmente perché quest molto importanti, molto difficili, ti danno roba che hai veramente... è diventata inutile 2 ore fa, diciamo. 2, 3, 4 ore fa. O Anthem ha fatto veramente un casino perché, vabbè, ormai non gioca più nessuno, però prima che la gente smettesse di giocarci, per vari motivi, c'è stato un periodo in cui, per un bug, per un problema con i server, un sacco di giocatori otteneva veramente tantissimi oggetti potenti. Cioè, la probabilità di ottenere qualche arma molto forte era aumentata tantissimo, e quindi tutti quanti giocavano, oh, che bello, cioè, così la progressione è molto più veloce. E sono resi conto del problema, l'hanno risolto, e sono resi conto che non era un problema. Cioè, avrebbero dovuto lasciarlo così, perché poi hanno smesso tutti di giocare. Però sì, non so se avevi qualcosa a riguardo da aggiungere pure qui su... No, quello diciamo che secondo me rientra più che nel sistema di quest, sistema anche di loot, ovvero come funziona tutto l'equipaggiamento del giocatore. È vero, è molto legato a quello, sì, esatto. Sì. Ma sì, come dicevi, il bilanciare nella maniera giusta i reward, i premi per una quest, è una cosa che uno può averne un'idea all'inizio e può cercare di seguirla e poi dopo modificare una volta ottenuti dei feedback o comunque dopo aver analizzato qualche dato. E soprattutto in giochi come, diciamo prima, ho fatto l'esempio di Assassin's Creed Odyssey, in giochi estremamente aperti, se il giocatore non segue esattamente l'idea delle quest che si erano fatte, che si era fatto lo sviluppatore, può finire che reward che magari lo sviluppatore cercava di rendere più emozionanti, più speciali per il giocatore, finiscono per essere delle inutili, delle merde, completamente inutili e ormai superati dal livello. Quindi diciamo che per i reward non c'è molto da dire, se non effettivamente il metodo migliore è prova e cambia durante lo sviluppo, ma una volta che il gioco è stato rilasciato non ci si può più fare molto, se non è un gioco online o comunque degno di patch, per così dire. Esatto, esatto. Degno di patch mi piace come definizione. Se sei disponibile a buttare soldi per migliorarlo. E no, vabbè, poi parleremo di queste cose più... Però mi sembra che qua Jacopo abbia dato tutti gli elementi fondamentali per la quest, ovvero 1) la sua importanza, 2) quello che serve per farla partire, per il prerequisito, 3) quello che devi fare per definirla conclusa, cioè per effettivamente trovare il santo, per ritornare all'esempio di prima, e 4) quello che mi dà in cambio per fare questa cosa. Ci sono altri elementi, ma sono più difficili da definire in maniera come posso dire, concreta, facile da incapsulare, perché vabbè, uno forse sì. Allora, prima di continuare, come vengono generate queste quest? Forse non abbiamo parlato quello, secondo me non, No, beh, quello dovremmo, secondo me è una cosa più da discutere durante la giornata con i vari esempi. Cioè, secondo me, come queste, effettivamente, queste sono l'elemento, sì, l'elemento principale, questi quattro elementi sono quelli principali. Okay. Gli altri sono più tipo come il gioco... Come, esatto, come ti fa arrivare a quello... gestisce il suo sistema, appunto, diciamo. Perché questa è una quest, però il sistema delle quest... nelle quest nel loro complesso all'interno di un videogioco è ancora più complesso, perché è facile dire uccidi 10 lupi per completare questa quest e avrai in cambio una nuova spada, e quello va bene, però poi nel sistema generale come la dobbiamo mettere questa quest? Te la metto alla fine del gioco, 2 minuti prima del boss finale, o te la metto all'inizio? Probabilmente se i lupi sono il primo nemico che incontri, è probabile che questa sarà una delle quest che incontrerai all'inizio. Se i lupi sono lupi mannari che colpo, magari anche metterlo alla fine del gioco non potrebbe essere una cosa ideale. Ed è qui che entra, come dire, il complesso delle cose. Sì, qua che si inizia a vedere il sistema nel suo complesso. E... sì, se i lupi sono dei teneroni pucciosi altri 50 metri che difendono la tomba del loro padrone, già c'è un livello di complessità. Cioè, non è solamente definire quando mettertela e capire il reward, capire il premio, è anche, cioè, a livello proprio di gestione della, magari della, del percorso che devi fare per arrivare alla fine, cioè, capito? Cioè, devi definire magari anche il viaggio che devi fare, i vari passi, i vari step intermedi che devi fare, devi definire magari anche come si incastra questa quest in mezzo ad altre quest, cioè, non è, come dici tu, non è una cosa semplice da fare. Per cui direi di partire dicendo in generale quello che fanno la maggior parte dei giochi, quello che ormai è diventato abbastanza lo standard. Diciamo, qualsiasi gioco di ruolo, vedi Skyrim, vedi la maggior parte dei giochi della Bethesda, qualsiasi... sì, tutti gli RPG con le statistiche, vedi anche in Final Fantasy un po' meno, cioè non hanno proprio l'elenco delle quest da beh, oddio, il 15 sì. A parte gli ultimi, appunto, come dicevamo, perché è diventato giusto lo standard in questi ultimi anni. Vedi tutti gli MMO, in tutti questi sistemi il gioco parte con il giocatore che viene introdotto alla storia, abbiamo avvia il gioco, c'è il suo incipit, e a un certo punto, quando il controllo passa al giocatore, il giocatore deve decidere cosa fare, e la prima cosa che il gioco fa in questo caso è introdurti a quello che sa, come dire, l'obiettivo finale del tuo personaggio in questo mondo, cioè dal classico a salvare il mondo dalla distruzione a, ora che ci penso, è principalmente quello il più delle volte è quello, però ti danno qualcosa di preciso, di definito da fare per non mandarti completamente allo sbaraglio in questo mondo che non conosci. Se pensiamo infatti al classico esempio di Skyrim, una delle prime cose che fa, appunto, è, dopo averti fatto uscire dall'area iniziale, è appunto darti la prima quest, che è la prima del, come dire, della quest principale, della storia principale del gioco, ma che non è su vai a salvare il mondo, è semplicemente raggiungi questa città. E poi da qui, una volta che hai compiuto questo primo passo, che sai di aver risolto questa prima parte della quest, ti verranno dati i passi successivi. Questo è anche per non, come dire, non sconvolgere troppo il giocatore, non buttargli tutto addosso sin dall'inizio. Sì, esatto. Se no si confonde, sì. Esatto, per riuscire a gestire in maniera ottimale tutta la questione. Perché si dice, butti questo giocatore in mezzo al mondo, vai a salvare il mondo, Toglierai 400 icone con il punto di domanda. Mi ha appena fatto fuori un orso, che devo fare mo? Quindi sì, come, prima, come questione principale appunto è lo spezzare il gioco in fette più digeribili, in modo che uno possa darsi degli obiettivi precisi e non sia completamente perso. Ed ora, è questo, diciamo, almeno secondo il mio punto di vista, il, come dire, il compito principale di un sistema di questo. Ok. Ok. Però volevo chiederti, per evitare questo effetto di fanali, cioè occhi da cervo, che non sai che cazzo fare, sei perso, sei congelato in mezzo a questo mondo. Mm-hmm. Questi giochi che hai citato sono tutti, vabbè, ovviamente giochi di solito open world che hanno bisogno di un sistema di quest per questi motivi che hai detto. Quali lo fanno meglio e quali peggio, secondo te, di questi che hai citato? Allora, questa è una domanda interessante perché, come diceva prima Jacopo, esistono vari tipi di quest. Per fare un esempio, Skyrim, le sue quest principali, cioè, se fosse solo quest principali Skyrim, secondo me sarebbe un buon sistema, nel senso ti divide la storia in vari pezzi, non ti dà obiettivi troppo colossali a gestire, se non più verso la fine, e per il resto ti dice, ti dà delle linee guida su dove andare a fare. Il problema, appunto, come diceva Jacopo, è quando ci metti anche tutto il resto dentro. Perché in Skyrim, faccio sempre questo esempio perché è un gioco che Dio solo sa quante ore ci ho giocato a Skyrim. Esatto, sei molto esperto. Ma anch'io più o meno. Come penso possano testimoniare la maggior parte dei giocatori, uno di cui conosciamo anche tra l'altro molto bene, è, diciamo che la quest principale si va a perdere in tutte le altre quest che il mondo di gioco ti mette a disposizione. Tipo il 10% del totale la quest principale, in realtà. Ma forse anche meno. Forse anche meno, per molti è tipo l'1%. Ed è anche questo il punto. Se poi per Skyrim, di nuovo, è una cosa che ci può stare perché è più aperto, uno non deve per forza seguire la missione principale per, tra virgolette, finire il gioco. Per altri giochi questa cosa si sente un po' di più, come per esempio forse in Assassin's Creed, se Jacopo è d'accordo con me. Se il mondo di gioco ti riempie di cose da fare e di premi, scenette, piccole storie, sottostorie nel mondo di gioco, questa principale si va un po' a perdere tra tutte quelle secondarie. Dipende. Però sì, è facile cadere in quel rischio, diciamo. Esatto. E questo, secondo me, succede anche perché molte delle quest secondarie capita molto spesso che sembrino quasi cose veramente a parte rispetto alla missione principale. Cioè, tu sei in questo mondo, stai affrontando draghi così, e poi a un certo punto ti chiedono di fare qualcosa di completamente diverso. Ed è carino, è una cosa divertente, gli scrittori del gioco si saranno assolutamente impegnati, ci sono quest secondarie assolutamente avvincenti e interessanti, ma che rischiano ovviamente di, come dire, rubare troppo l'attenzione dalla quest principale. E un'altra cosa che Skyrim probabilmente ha fatto male con il suo volere essere così completamente aperto, così completamente, come dire, dinamico, per usare se vogliamo usare questo termine. Ed è una cosa che hanno anche pubblicizzato per il gioco, cioè si sono vantati di averla fatta e aver creato quest generate dinamicamente. Se oh Cristo, ok, parliamone, vai. Parliamo. È il momento, vai, purtroppo dobbiamo parlare. Nel gioco di Skyrim esiste questa cosa chiamata Radiant Quest, che era un riferimento, se non sbaglio, alla Radiant AI del gioco precedente. Se non ricordo male, Jacopo. Tra l'altro, sì, molto, molto bella. Ci ho letto delle cose su quel sistema ormai un po' superato di Oblivion. Se vogliamo parlarne un secondo, praticamente era il fatto che ogni personaggio nel mondo, personaggio non giocante, ovviamente di quelli rilevanti, che non erano infiniti, ne erano due centinaia, tipo, non mi ricordo, o tre centinaia. Mm-hmm. Ogni personaggio aveva una sua tabella di marcia giornaliera. e se era vivo, perché poteva anche morire a volte, potevi ucciderlo, la svolgeva, quindi il gioco in ogni momento sapeva chi stava facendo cosa, e tu in base all'ora della giornata potevi vedere gente magari fare colazione, pranzo, andare al lavoro, andare in un... cioè, era tutto per dare un senso di coerenza alle attività. Per rendere il mondo più vivo, per renderlo esatto. più... partecipe. E così cosa hanno detto? Nel gioco successivo, Skyrim, hanno detto, facciamo anche quest, creiamo queste quest che rappresentano, diciamo, i personaggi magari che vogliono qualcosa e ti chiedono a te, eletto passante, che... puoi andare a ho bisogno di queste medicine, puoi andare a raccoglierle sulla montagna più alta eccetera eccetera. Solo che uno non ci metteva troppo a rendersi conto che il più delle volte incontravi un minatore, di guerriero, mi servono 10 pezzi di ferro, e tu andavi a prenderli e li portavi, dici, grazie, tieni questa spada generata dinamicamente. E sì, cioè, era carina come idea per cercare sempre di rendere il mondo, però non è stata, almeno non mi sembra, parere mio e mi sembra di anche di altre persone, non sia stata, come dire, ben eseguita. Cioè, alla fine erano sempre le stesse, come dire, le stesse versioni, le stesse quest più o meno simili tra loro, che ogni tanto si venivano ripetute con delle variazioni, tipo invece di prendere 10 fiori da una parte vai a prendere 10 pietre da un'altra, e invece dell'ascia di fuoco ti danno la spada di ghiaccio come ricompensa alla quest successiva. Quindi è a questa idea di cercare di generare dinamicamente questi contenuti extra in un gioco che aveva già fin troppa roba di per sé. Mamma mia. Un po' perdersi in tutto il resto. A me ha fatto incazzare Fallout 4 perché mi ha fregato. Cioè io ho pensato, ho fatto 3 volte la stessa quest pensando che, ok, se la faccio tipo 3-4 volte e poi ho finito. E invece ogni volta mi dava la stessa. Anche sì, se fosse scritto Odyssey. E hanno detto, no, dai, è andata abbastanza bene, teniamola anche. Porco due, io ho odiato Fallout 4 anche per questo, mamma mia. Ah, povero Fallout 4. Povero, porco. Quindi sì, Jacopo mi chiedeva, secondo me, qual era un gioco... Come? Punto di vista... Aspetta, hai laggato, non so se Craig ti ha sentito, vai. Ripetiamo per il povero Craig. Jacopo mi chiedeva quale, secondo me, era un gioco che lo faceva particolarmente bene. Ora, io sono sempre stato uno di quelli che provava a completare il tutto di tutto di qualsiasi videogioco, e quando si rendeva conto che soprattutto in giochi RPG così vasti, enormi, non ci riusciva, a un certo punto ci dava su. Quindi non conosco a memoria tutte le quest di un particolare videogioco, o riesco a ricordarmi tutti i passaggi di una particolare storyline in Skyrim o qualsiasi altra cosa, però un gioco che secondo me rappresenta per bene uno dei migliori esempi che sia stato fatto è sempre lì, sempre per tornarci sopra, Fallout New Vegas. Fallout New Vegas, sempre ambientato nel mondo di Fallout, come avevo già accennato in altri del podcast. Praticamente sarà un altro ospite fisso del podcast ormai, Fallout New Vegas. C'è un motivo se... Sono sempre gli stessi giochi che sono questi, come dire, pilastri di questo mondo. Andate ad aprire una delle qualsiasi centinaia di pagine che dicono, guarda, sono i 20 migliori videogiochi. Sono sempre quelli in un sito diverso dall'altro. In Fallout New Vegas, come dicevo, non c'era ancora questa cosa della quest generata dinamicamente. E ogni quest che era stata creata per il gioco era stata scritta da un gruppo di scrittori che sapeva il fatto loro. Le quest sono molto, molto spesso originali, inteso l'idea proprio alla base della quest, a parte, diciamo, un po' quelle classiche del tipo, ah, c'è, qua c'è un rifugio di malviventi e valli ad ammazzare tutti, eccetera, eccetera, che ovviamente si trovavano un po' in giro, perché, voglio dire, anche nel post-apocalittico le gang ci sono sempre, ma molte di queste quest sono appunto lodate per la loro storia interessante. Aspetta, hai detto originalità? Ho detto originalità, se vogliamo essere originali dico ancora originalità. E per il loro... mannaggia, il filo. Scusami, quindi, è che non ti sei sentito davvero. Che comunque stavano perfettamente nel mondo di gioco. E anche perché, e secondo me, qua si arriva ad altri due punti del discorso che volevamo fare oggi, sono tutte scritte con l'idea che di poter affrontare in maniera molto diversa. Allora, siccome stai laggando, ripeto quello che penso che hai detto. Sono state scritte con l'idea di poter essere affrontate in maniera molto diversa. Esattamente, con vari stili di gioco diversi. Ah, ok, ok. Con vari stili di gioco diversi, perché che, secondo me, in giochi che vogliono essere open world, che vogliono che ti, soprattutto giochi di ruolo, che dicono, ah, qua puoi essere quello che vuoi, puoi essere il personaggio violento, puoi essere il personaggio più pacifista, non tutti, come dire, rispettano questa premessa che hanno detto. Ci sono quei giochi che dicono, ah, qua puoi essere pacifista, puoi essere violento, cose del genere, però ci sono certi punti in certe parti della storia dove ti forza a fare una cosa. Esatto, ti forzano la mano, cioè magari arrivi in un boss che puoi solo uccidere e non puoi... No, basta con questa cosa, mi fai venire i ricordi traumatici così. Di Human Revolution. Vabbè, andiamo avanti. E invece, in questo è esattamente un esempio che vorrei ricordare sempre per la sua originalità. Oddio. In cui questa cosa si vede molto. Un esempio lampante come proprio, per esempio, uno dei, tra virgolette, boss finali di una delle storyline di una certa quest. Poi, letteralmente, se hai una capacità dialettica, prevede anche la dialettica come abilità del personaggio, puoi semplicemente parlargli e convincerlo a ritirarsi. Che bello, che bellezza. Invece di andare subito alle armi. Però anche lì, cioè, è anche bello quando una quest ti permette di concluderla, sì, combattendo, ma combattendo in maniera molto diversa, cioè in maniera furtiva, in maniera... da distanza, da vicino, forza bruta, oppure più magari con precisione, parry, cose così, parate, eccetera. Perché appunto una buona quest, come abbiamo detto prima, allora può essere autoriale o procedurale, cioè può essere creata da un autore con dei passi molto specifici o creata da un algoritmo, dal computer, con appunto le quest di Fallout 4 Skyrim che abbiamo detto prima, ma in entrambi i casi, secondo me, deve essere ben pensata a livello proprio di come è possibile affrontarla, cioè dare ad ogni giocatore la possibilità di affrontarla in un modo che almeno all'interno del linguaggio del videogioco è aperto. Mi spiego, cioè, un conto è dire questa la puoi fare, ah, puoi risolvere questa cosa come ti pare. No, puoi risolverla come ti pare all'interno dei sistemi del gioco. Se il gioco non ha la possibilità di parlare con altre persone, non ha il dialogo, non ha il sistema di scelta di dialogo, non ha senso che puoi risolvere una quest parlandoci, magari. Non c'hai il sistema pronto per farlo. Però magari hai tutte le regole che hai presentato fino a quel momento, tutti i sistemi, le meccaniche che hai presentato fino a quel momento, disponibili per il giocatore che magari ne usa più una o ne usa due. Cioè, devi dare un modo per premiare la creatività del giocatore e la capacità di adattarsi senza costringerlo a cambiare completamente atteggiamento, diciamo. Mm-hmm. È un po' anche lì, come diciamo prima per i premi, no? È sempre un discorso di bilanciare quanto vuoi mettere in difficoltà il giocatore e spostarlo dalla sua comfort zone, diciamo, e invece premiare l'abilità che ha raggiunto nell'esercitare la cosa che gli piace di più, non lo so, l'arma o lo stile di combattimento. Più che più semplicemente più che la sua capacità di riuscire a fare qualcosa, è solo le sue scelte. Se un giocatore ha scelto anche, sì, certo. Se un giocatore ha scelto di voler affrontare questa partita in una maniera meno violenta, più, come dire, più pacifista, più basata sul dialogo e cose del genere, in un gioco open world è giusto che abbia questa possibilità. Ho visto run di partite di Fallout New Vegas che venivano fatti con personaggi che praticamente evitavano il più possibile il combattimento. Sì, pacifisti, sì, certo. Parlare con i loro avversari ed era una cosa fattibile dal sistema. Cioè il sistema prevedeva che fosse fattibile, tranne ovviamente in rare eccezioni, però in entrambe le parti. Magari c'erano volte in cui il risultato finale era solo il combattimento, altre volte era solo il dialogo, tu, a meno che proprio non entrassi nella stanza con una pistola spianata, però... Sì. Però quello che dicevo, che intendevo io, è che a volte non sembra una scelta. No, cioè, assolutamente. Tu stai giocando un gioco, come lo giocheresti tu? Perché il gioco ti ha, diciamo, lasciato intendere che sia possibile. Il gioco non ti ha mai detto, cioè alla fine Fallout New Vegas, perché dici ho visto una volta un giocatore giocare in quel modo, semplicemente parlando? Perché sei abituato a pensarlo come un gioco sparatutto, RPG, dove una delle tue meccaniche principali, è una dei tuoi strumenti principali è il combattimento, è la sparare al problema. E parlarci invece è la cosa secondaria, no? È la cosa che fa che magari... Le pistole risolvono tutto, no? Quindi che problema? Parlare prima, fare domande dopo, esatto. Ma questo non è un podcast di politica, scusate. Anche perché hai appena dichiarato di essere al tuo, diciamo, cuore, sei un armaiolo, un repubblicano. Vabbè. Sì. Comunque... Il sarcasmo, sì. Questo perché, secondo me, appunto, la tua... sei abituato a pensarla così, ma un gioco che si presenta in un modo diverso magari ti dà un'idea diversa di come risolvere i problemi. Tipo, Dark Souls. Ora, io volevo parlare in generale di ospite assicuro. Sì, vabbè, anche lui è ospite greggio in positivo e in negativo. Volevo parlare un po' di come le quest vengono presentate al giocatore, cioè se c'è un'icona, c'è un sistema tipo di diario che ti tiene tutte le quest attive. Nel caso di Dark Souls è bastardo, perché non c'è una quest, cioè tu stai facendo cose che neanche tu sai perché le stai facendo. Ci sono degli indizi e dei filmati che ti indirizzano verso, diciamo, verso il tuo obiettivo attuale, che neanche sai perché ci stai andando in alcuni momenti, e vieni un po' sbalottato di qua e di là. Io parlo della prima volta che giochi senza nessun tipo di influenze esterne o altri documenti, e hai dei personaggi che incontri, ci parli, magari fai qualcosa, non ti rendi conto che stai procedendo, stai facendo andare avanti una quest di quel personaggio. Quindi magari io mi sono ritrovato a incontrare un personaggio impazzito che a me stava particolarmente simpatico e a doverlo uccidere senza sapere perché, cioè senza sapere che cazzo è successo. Cioè ti ritrovi a vedere personaggi morire perché ne hai liberati altri e a dover cercare magari su internet perché, o a dover aspettare magari e a dover interpretare certe cose nel gioco dopo molto tempo. Quindi a volte, io sto dicendo questo, sembra in senso negativo, ma in realtà è una delle cose che ho apprezzato di più, perché a volte la quest può non essere chiara. Cioè tu, come sei magari abituato a pensare quando vedi un gioco che lo strumento principale sia la violenza, sei abituato a pensare che lo strumento per tenere traccia delle quest deve per forza essere dentro il gioco, cioè deve per forza essere... Invece magari a volte devi essere tu a ricordarti cosa ti ha detto un personaggio, a vedere un po' di dettagli di quello che indossa, di dove si trova, del suo atteggiamento, della sua personalità. Quali sono? E devi abituarti magari a pensare a quel personaggio come a un personaggio reale che ha degli obiettivi da raggiungere indipendenti da te, che magari si incontrano in certi momenti, e questa è una cosa che non sei abituato a pensare in un gioco, perché cazzo, io sono il protagonista e tutto gira intorno a me. Cioè, la gente in Fallout aspetta che arrivi prima di vivere. Cioè, non è che pensi, ah, questi c'hanno idee, fanno cose. Anche perché è rischioso far succedere cose quando il giocatore non è presente, perché non sempre hanno tutti la pazienza di pensare a cosa è successo e perché. Mm-hmm. Ho letto che questo non c'entra un cazzo, però ho letto un commento di un programmatore di intelligenza artificiale di Splinter Cell Blacklist, che è un gioco di furtività, diciamo, di infiltrazione e spionaggio, dove diceva: se il giocatore non sta guardando un nemico, cioè non è, e se un nemico non è nel suo campo visivo, non è nella direzione che sta guardando, quel nemico dovrebbe essere più cieco e più sordo del normale, cioè dovrebbe avere i suoi sensi ridotti, perché se quel nemico ti vede o ti sente e tu non lo vedi, sembra meno giusto al giocatore. Quindi non importa cos'è giusto dal punto di vista dei sistemi, a volte importa cosa il giocatore percepisce come giusto, come corretto, capito? Mm-hmm. Ed è molto... Sì, dimmi. No, un po' come i bambini quando nascondi qualcosa pensano che non esista più. Cioè, esatto. Anche come... E questa cosa che ogni tanto quello che noi percepiamo, la nostra convinzione del mondo, non corrisponde sempre alla realtà, e a volte se una queste cose in questi giochi, appunto, come dire, passatempi che utilizziamo per svagarci, ci sembra ingiusto, funziona così, è un po' come è come la vita vera, cioè qualcuno ti dà una cosa e se la riprende e tu dici: ah, ma ho tolto quella cosa, invece era lui che te l'aveva data, cioè non per dire che i giocatori sono viziati, però ma succede anche a Hollywood, quando la gente pensa che quelli che vengono colpiti dai proiettili volino indietro. È vero, esatto, è vero, quella convinzione che arrivati a un certo punto la persona si forma appunto questa convinzione nella testa, e quando la convinzione viene rotta c'è qualcosa che non va. Esatto, cioè come si muove una persona, come muove gli occhi, come si muove i muscoli e la pelle, sono tutte cose a cui siamo abituati talmente tanto che quando qualcosa non va bene, come in un film tipo Gemini Man o anche un film tipo della Pixar... Esatto, quando siamo abituati a vedere che le cose funzionano così, che i personaggi parlano così, che... è difficile bilanciare le cose in modo da fare qualcosa di diverso, ma non fare incazzare nessuno, mettiamola così, non rende... È stato proprio per questo che Dark Souls è stato un po' un fulmine a ciel sereno, cioè noi eravamo così abituati anni e anni ai giochi che avevano tutto il diarietto con le quest, tutto l'elenco con le crocette, di quello che avevamo fatto e di quello che avevamo fatto, personaggi che non esistevano a meno che, come dicevi tu, non li guardiamo noi. Un gioco che ha reso il modo di raccontare, il modo di dare obiettivi al giocatore in una maniera un po' più, tra virgolette, un po' più... un po' più contorta, un po', però anche un po' più naturale sotto certi punti di vista. Naturale per te che vivi nel mondo reale, cioè... nel senso inteso più non naturale, più realistica, è stato insomma, ha creato scompiglio, ha creato appunto, cioè Dark Souls era il Dark Soul dei Dark Souls. Esatto. Questo però non voglio dire, cioè, ripeto, Dark Souls ha spostato la complessità altrove, ha reso questi sistemi di quest molto semplici, molto lineari, perché la complessità era altrove, era il ricordarsi, era il capire, era il informarsi, era il combattere, cioè in un gioco però invece a Skyrim senza l'elenco in... mamma mia, ma infatti c'è, cioè, un gioco come The Witcher 3 che, di cui volevo parlare anche, o anche Divinity Original Sin 2, hanno dei sistemi classici per ricordare al giocatore cosa dovrebbe fare, quindi hanno una lista di quest divise in principali, secondarie, e il modo in cui approcciano invece la quest stessa è diverso da Dark Souls, giustamente, cioè ha più scelte, ha più complessità, ha più sistemi che interagiscono e ha anche a volte dei premi non molto concreti. Qui andiamo un po' a sfociare sull'ultima parte del podcast, diciamo, che dove volevo parlare di esempi di quest, secondo me, ben fatte e particolarmente egregie, che mi sono rimaste impresse. Per cercare di parlare un po' più in generale, prima di parlare di quello, nel caso di The Witcher 3 e di Divinity Original Sin 2, ci sono queste che possono essere completate molto in maniera molto diversa, sono molto aperte, molto più aperte di altri giochi, semplicemente perché vanno a interagire decisioni e conseguenze di altre quest in maniera molto più pesante che in altri giochi, vanno a scontrarsi degli interessi a volte e vanno a crearsi situazioni dove per chiudere una quest, che è una cosa a cui noi siamo molto abituati, perché magari siamo completisti, no? Cioè, vediamo la lista della spesa, ah, questo ho fatto, questo ho comprato, questo ho trovato, e vogliamo chiuderla. E invece no, perché magari alcune quest non dovresti. Cioè, non dovresti concludere una quest solo perché il gioco ti dice che è attiva. Ed è una decisione che non siamo abituati a fare, capito? Cioè, è un altro modo per usare i sistemi in maniera diversa, quindi aumentando l'apertura... Esatto, un modo interessante per usarli. E per finire, ancora sempre parlando di sistemi, abbiamo detto del fatto di magari aver concluso una quest prima di sapere che esisteva, parlavo di Mankind Divided, Deus Ex. È molto bello quando sai che c'è un mondo persistente, quindi hai... Anche in Odyssey in realtà succede. Hai raggiunto un obiettivo senza saperlo, hai trovato un oggetto interessante o hai esplorato un appartamento sospetto, senza sapere però bene, non ho ben capito questo come si incastra, e poi lo sai dopo. Mi è sembrato una cosa talmente banale, ma talmente naturale. Cioè, io ero abituato che, se io non prendo la quest da questo stronzo che mi vuole far andare là, io quella cosa non ce la trovo lì, cioè non c'è nessun... No. E invece no, quella cosa c'è già, perché l'universo è persistente, è già lì. Esatto, in questo caso le quest sono più integrate nel mondo stesso, mentre prima erano cose che il giocatore doveva far accadere e poi dopo processarle, esatto, per far arrivare alla conclusione. Esatto, e non è neanche, quindi ripeto, cioè non è che se tu hai un sistema classico vuol dire che è banale, perché puoi farci quello che vuoi, cioè anche un sistema che abbiamo buttato merda per tutto l'episodio, tipo un sistema procedurale, puoi farlo bene. Middle Earth, Shadow of l'ombra di Mordor, l'ombra della guerra, sono due giochi basati su universo classico di Tolkien, Terra di Mezzo, eccetera, ma hanno un sistema anche classico di questo, principale, secondario, ma hanno un sistema che si chiama Nemesis, che è un sistema in realtà procedurale, cioè lui è un sistema che crea questi orchi, questi nemici che tu puoi vedere su questa specie di gerarchia, dici, questo è il capo, questo è il sottotenente, non so, cioè vedi, che ne so, sono tipo 3-4 livelli di gerarchia, e non è solamente li trovi, li ammazzi e finisce lì, è un sistema di relazioni, cioè vedi magari uno che vuole diventare il leader, quindi vai lì, lo puoi convertire alla tua fazione e poi lo puoi far infiltrare, quindi diventa un traditore, poi magari tradisce anche te, quindi c'hai magari questo combattimento dove pensi di star vincendo, invece lui alla fine ti tradisce e ti uccide, e hai questo collegamento molto vero, molto come posso dire, acceso, dici, adesso vengo là e ti ammazzo, bastardo traditore di merda. Ma hai anche nemici che semplicemente diventano leggendari per te personalmente, cioè io ho un nemico avevo un nemico che mi ha ucciso 4 volte, cioè io ogni volta provavo lì a andare e lo provavo a uccidere, e lui mi uccideva e mi prendeva per il culo e saliva di livello, cioè lì diventava molto sempre più importante nella gerarchia, nella storia, diventava sempre più, perché ero io ad andare lì a volerlo uccidere, perché ero un idiota, ero a un livello più basso, non dovevo. Ho aspettato, cioè tipo ho giocato tantissime ore per arrivare al livello dove era lui ormai, e quando l'ho ucciso, mamma, cioè è come se avessi ucciso il boss del gioco io personalmente, ma in realtà non era nessuno, cioè era un personaggio creato quasi a caso che sono stato io a renderlo, e queste storie ogni volta che succede qualcosa di casuale, tipo arriva un soldato di Gondor che ti salva, arriva un altro orco che attacca mentre stai combattendo con un altro, cioè tutti questi avvenimenti, ma ce ne sono tantissimi, trappole che scattano, queste cose casuali che il gioco crea, che vanno a creare una storia che è personale tua ed è interessante comunque, non è vai lì, uccidi 10 procedurale, poi ne vorrei parlare. Eh? Di storie procedurali poi ne vorrei parlare assolutamente. Ah, okay. Di storie procedurali ne parleremo, questo era più parlando del sistema. Stai dicendo esiste questo sistema procedurale, diciamo in questo caso la proceduralità è un sistema staccato dalle quest, dal sistema tra virgolette di quest, però allo stesso tempo integrato con esse, il che rende il sistema di quest ancora più interessante. Ed è anche, esatto, ed è anche un altro, questo un esempio di come si può fare in maniera diversa, cioè staccarsi un po' dall'abitudine che ci siamo formati tutti quegli anni di RPG classici e MMO e tutto quanto, e quando troviamo qualcosa di nuovo ce lo rende particolarmente interessante. E vorrei fare anche un paio di cenni prima di passare all'ultima parte del podcast, dove discutevamo appunto di quest particolarmente interessanti. E un'altra cosa che secondo me è sempre per cattiva abitudine, tra virgolette, che tutti i vari anni su RPG che ci hanno abituato così, il fatto che molto spesso, di nuovo esempio lampante, in Skyrim, io mi è capitato molto spesso tutta la parte di storia di una quest per arrivare... Ti sei interrotto un attimo, ti è capitato molto spesso? Mi è capitato molto spesso di saltare tutta la parte che cercava di unire la quest alla storia dietro la quest. Inteso, quando il personaggio faceva lo spiegone oppure incontravo il tizio che mi raccontava la storia della sua vita per poi chiedermi di andare a prendere 10 fiori in un certo posto. Esatto. Me ne fregavo abbastanza altamente della storia del personaggio, ed era questo uno dei rischi che dicevo poteva capitare, cioè quello di rendere le quest così meccaniche, così... Sì, proprio delle faccende di casa, praticamente, che alla fine le senti molto proprio come delle cose da fare, non come cose interessanti da vivere nel mondo di gioco. Esatto, vai, skip. Esatto. Ed è una cosa che, almeno negli ultimi tempi, ho visto cercare di rimediare un po', perché sono usciti alcuni giochi che, come dicevo prima, una volta ho provato a giocare a Skyrim senza la bussola, cioè ignorando, dopo che la quest è stata registrata nel diario, ti dice semplicemente il posto dove dovevi andare, e tu ci andavi e voilà, completavi quello che dovevi fare e tornavi indietro. E se provi a giocare a Skyrim senza usare la bussola, è tutta un'altra faccenda. Perché non è facile orientarsi, perché non è veramente... Oddio, è pensato fino a certi livelli, non usi proprio l'ambientazione di gioco per orientarti, non vivi veramente la tua quest, la tua ricerca. Mentre ci sono giochi che negli ultimi tempi hanno reso le quest come una parte più integrata nel mondo. Intendo, non ti dicono, non ti appare il puntatore sulla mappa, vai qui, ma magari i personaggi che ti danno la quest ti danno degli indizi, oppure ti danno dei consigli da seguire, una direzione da prendere, che è una cosa che si era vista in videogiochi più vecchi. Credo che in Morrowind fosse così, se non ricordo male, e che adesso si sta un po' riscoprendo. In Breath of the Wild, l'ultimo gioco di Zelda, ne è un esempio lampante. Ci sono svariate quest che sì, ti danno puntatori sulla mappa, ma solo per dirti, diciamo, più o meno dove devi andare, in che zona l'hai ottenuta, Sì, questa è una cosa che anche Assassin's Creed Odyssey ha fatto e a me è piaciuta molto, cioè il fatto di dirti questa cosa si trova qui, non ti dice, non ti dice sulla mappa dov'è, sei tu che devi andare a leggere i nomi dei posti. Cioè, non te la rende proprio quella mansione da fare, cioè non ti dice semplicemente solo il puntatore, tu devi andare al puntatore e poi tornare indietro, cioè non ti rende la cosa meccanica, ma te la rende effettivamente un'avventura, una piccola storia che stai vivendo per ottenere qualcosa in cambio, qualcosa di molto piccolo a volte, ma che comunque rende la cosa interessante. E Breath of the Wild, come dire, ha fatto già un passo in più verso questa direzione e ha iniziato a staccarsi da questa cosa di meccanicità delle quest. E a quanto pare anche Odyssey, come mi dici tu, che non mi è capitato di provare, ma se mi dici che anche lui ha fatto tutto di cappello. Hanno migliorato questa cosa per molte quest. Cioè, in molte quest hai un personaggio che ti dice, guarda, fammi questa cosa, e tu gli dici, ah, ok, dove? E lui gli dice, ah, guarda, devi andare lì. E poi sulla mappa, quando scegli quella missione, non è che ti dice dov'è, ti dice, ah, devi andare qui, è vicino a questo posto. E se ci sei già stato e hai già completato quel campo, quella casa, magari può essere che ti dicono, ah, deve essere questo perché non c'hai altre, cioè, non esistono altre opzioni. Cioè, se stai cercando un accampamento che è in questa zona dell'isola, vicino a quest'altra città, deve essere per forza questo, allora te lo segna. Esatto. Altrimenti devi essere tu che devi dedurre, ah, ok, allora provo ad andare qui e poi vediamo cosa c'è, se lo trovo. Cioè, che è molto bello perché... Finisci pure. No, è molto bello perché mi piace quando il semplice atto di andare in un posto è complicato, è una specie di mini puzzle. Esatto. Sì, è una piccola avventura, è veramente quella ricerca di cui si parlava all'inizio. E se da un lato dicevo abbiamo Skyrim che rende la cosa completamente meccanica, e dall'altro lato abbiamo, come diciamo prima, Dark Souls che proprio ti rende la cosa molto... Se non stai attento a quello che dicono, a volte lo dicono in maniera fin troppo criptica, ti puoi perdere in quello che dovresti fare. Diciamo che Zelda sta abbastanza nel mezzo ed è riuscito a creare una buona già di suo, come dire, una buona metodologia già di suo. E un altro gioco a cui volevo accennare sempre per questa cosa è un titolo che ha fatto un po' meno scalpore, o per meglio dire, ha fatto discutere, perché secondo me ha fatto molto discutere perché ha proprio cercato di essere un po' più rivoluzionario sotto questi punti di vista, e ad alcuni giocatori, di nuovo, abituati in altri modi, la cosa è risultata un po' strana e non proprio alla mano, diciamo, che si chiama Outward, se non ricordo male, sì, si chiama Outward. Sai che non mi viene in mente cos'è? È un videogioco per PC che penso sia uscito l'anno scorso, sì, l'anno scorso, credo. È molto sempre fantasy RPG, dove puoi scegliere il classico, che sotto molti punti di vista ha cercato di essere abbastanza innovativo. Per esempio, non ci sono i salvataggi, cioè inteso è proprio alla Dark Souls, cioè il gioco salva continuamente e vivi scelta. E poi le quest sono più, come devi fare più attenzione, per esempio, a quello che dicono i personaggi, se non sono, non c'è una mappa con le indicazioni, ma c'è proprio semplicemente una mappa che ti dà, come dire, ti dà più o meno indicazioni su come sia fatto il mondo di gioco, che però a volte poi possono essere errate oppure incomplete, tu devi riuscire a ottenere le parti mancanti e cose del genere, che secondo me è una maniera molto interessante di affrontare quest del gioco. E soprattutto, e questo è l'ultimo punto che vorrei fare prima di arrivare, una cosa che fa molto che non molti fanno e che secondo me dovrebbero fare in più persone, è che ci sono, di nuovo, sempre da quanto ho capito, perché anche questo non ho avuto la possibilità di giocarci, ma mi sono informato, ci dovrebbero essere tre principali main quest, ovvero a seconda della classe che scegli all'inizio puoi seguire tre strade principali per raggiungere la fine del gioco. E ci sono svariate... Quale gioco? Sempre Outward. Ah, ok. E ci sono svariate parti che, se tu scegli di seguire una certa strada, non ti è permesso, non ti è permesso seguirne un'altra. Inteso, le tue scelte influiscono anche sulle quest che puoi affrontare, anche su come le quest vanno a finire. E questa è una cosa che non tutti i giochi fanno. Di nuovo, sempre per dire Skyrim, come dicevamo prima, tu puoi scegliere di diventare un ladro nel gioco, e poi dopo che hai finito di diventare il più grande ladro assoluto, vai al college dei maghi e diventi anche un mago a questo punto. Esatto. E una volta che hai finito quello, perché non diventare anche un lupo mannaro a questo punto? Un vampiro dopo, certo. Un vampiro dopo e continuare così. E secondo me questo un po' toglie, soprattutto in un gioco che vuole essere gioco di ruolo, che ti sia concesso di fare tutto completamente con lo stesso personaggio, almeno, secondo me va a togliere all'importanza delle scelte del giocatore. E quindi tutto qui. Fate in modo che le quest, ci siano quest precluse a seconda di quello che un giocatore sceglie. Un'altra cosa che fa Fallout New Vegas da questo punto di vista è, per esempio, se un giocatore sceglie di essere più vicino a una fazione del gioco, cioè il gioco contiene varie fazioni, varie gang, vari gruppi, se un giocatore sceglie di essere più amico o nemico di una certa fazione, questo poi gli preclude le quest. Ah, quello sarebbe la prima cosa, sì. Della fazione opposta. E questo succede anche in Skyrim, tra virgolette, perché è una sola. Se uno sceglie andare con gli Stormcloak, poi non può fare le quest dell'impero, ma questo anche lì, cioè uno su tutto gioco, alla fine non conta tantissimo. E niente, tutto qui. Io volevo dire questo principalmente sulle quest. Ok, e invece di quest che ci hanno particolarmente colpito? Allora, queste che ci hanno colpito, fammi pensare, perché adesso quella cosa, quando ti chiedono di farti venire in mente un esempio, ok, hai il buco, allora... 600.000 quest in altrettanti... Posso chiederti una cosa? Allora, prima di passare a questo, così magari hai anche più tempo di pensare ai tuoi esempi dopo... stai giocando da un sacco di tempo a Animal Crossing, questa domanda volevo fartela prima. Animal Crossing, come anche Minecraft e altre cose, è un sacco aperto come gioco. Non ha proprio delle proprie quest. Come fa quel gioco a darti quella spinta, no? A fare qualcosa, a creare, a costruire? Perché Minecraft lo fa parzialmente con il discorso della notte, del fatto dei, come posso dire, dei mostri che arrivano. Tu dici, qual è il sistema di quest quando non c'è un sistema di quest? Esatto. Come fai a dare un'idea di un senso di progressione di obiettivo quando non c'è? Beh, ci sono giochi che puntano molto su questa cosa del io ti creo un sistema, ti creo un mondo e dopo tu ci puoi fare quello che vuoi. Infatti, se poi riusciremo ad arrivare a fare anche l'episodio su come io e ovviamente anche te personalmente definiamo un gioco, io vorrei argomentare che alcuni giochi, per esempio Minecraft e forse anche un po' Animal Crossing, così, io non li definirei proprio completamente giochi. Oddio! Non li definisco giochi, inteso sono più, non sono giochi ma giocattoli, secondo me. Giocattoli. Ma questo, ma non apriamo parentesi. Qui stai andando nella polemica profonda, Marco, non ci siamo. Ma non giocattoli intesi come minchiate, inteso? No, basta, mi hai insultato SimCity. Lo so, ma a questo punto ne parleremo in un altro episodio, magari. Cioè... Comunque sì. No, vabbè. Il punto ne parleremo di un altro episodio, allora dai, va bene, ok. No, però questa è una cosa interessante, giusto un paio di cose che vorrei dire. Cos'è che ti spinge a giocare a questi giochi? Non è tanto un sistema di quest, non c'è una storia da completare. Secondo me una delle cose principali è l'idea della possibilità che ti danno. Cioè tu vedi Minecraft, se tu fossi completamente chiuso in una stanza, un esempio sbagliato, però se tu fossi in una stanza da solo, pareti bianche, con un suo computer con sopra Minecraft, ci giocheresti per più che altro perché non ci sarebbe nient'altro da fare, principalmente. Ma il punto è che noi Minecraft è diventato famoso anche perché ci sono per tutto quello che si vede di Minecraft. Cioè tu uno vede talmente tante cose in giro, viene ispirato dalla vita. È il potenziale, no? È esatto, quello che ti dicono gli altri di Minecraft. Esatto, perché se tu apri Minecraft e dici questo mondo di cubi così, magari dici ok, cioè mi ci metto lì, poi magari effettivamente... Vaffanculo Edoardo, perché odia Minecraft. Per le persone più creative può essere effettivamente uno stimolo a creare qualcosa del genere. Ma secondo me molte delle persone... Hai sentito Edoardo, ti ha chiamato non creativo, Marco. Scusa, per i più creativi. non è che ci sono categorie. Per i più creativi può essere assolutamente un sistema per sfogare la creatività. Però secondo me la maggior parte delle persone anche vede tutto quello che i più creativi, come dicevo prima, ci hanno fatto così, e gli viene lo stimolo di provare anche a loro. Quindi c'è anche questa cosa di un gioco che funziona perché l'hai visto fare anche a... Ma guarda, in realtà capisco anche che lì, cioè capisco anche, Edoardo, che vabbè, il discorso, a parte il discorso grafica, eccetera, il fatto è che in Minecraft devi generarti tu la sfida. Cioè devi essere tu che ti devi porre un obiettivo, perché nel gioco te ne da pochi. E questa cosa, cioè, la capisco perché mi è successo in molti altri giochi, tipo Just Cause 3 e vabbè, anche altri, dove... arrivi a un certo punto che se non sei tu l'artefice del tuo, diciamo, divertimento, è esatto. Tutto un po' sempre la stessa cosa. Cioè... E quello che era più o meno quello che volevo dire, magari mi sono un po' spiegato abbastanza male, ma sì, nel senso, ci sono vari tipi di persone. Ci sono quelli che riescono a vedere la potenzialità nel gioco, cioè riescono a vedere quello che possono fare, si immaginano le cose e le fanno, e poi dopo quelli che hanno più difficoltà a vedere la potenzialità osservano quegli altri. Ah, ok. E poi dopo anche loro riescono a capire questa cosa. Quindi sì, c'è, nel senso, alcuni giochi effettivamente non ti viene a dire che come fanno ad avere talmente tanto successo, e secondo me è perché alcune persone creano qualcosa all'inizio, fanno partire quella scintilla, e poi dopo la scintilla si propaga. E qual è la scintilla con Animal Crossing? Perché non è che vedo gente magari fare il Millennium Falcon o l'Enterprise dentro Animal Crossing e dici, ah cazzo, o magari un computer che funziona. Cioè, è tutto... Animal Crossing mi sembra una... mi è sempre sembrato la versione portatile di Animal Crossing, la versione app per il telefono, no? Che adesso c'è anche, tra l'altro. Mm-hmm. Cioè, mi è sembrato molto Farmville. Tu vai lì, metti a fare i tuoi cocomeri e torni il giorno dopo. Beh, c'è un motivo anche per cui Farmville ha avuto talmente tanto tempo. No, è vero, sì, però... cioè, Sì, tu dici, perché non giocano a Minecraft quelli che giocano da... oppure una cosa del genere, o... No, ma spiegami qual è l'appeal, cioè cosa cerchi tu in Animal Crossing? Per spiegarmi, non perché voglio dire è uguale a Farmville o è uguale a Minecraft, è perché dal mio punto di vista non ho lo stimolo per giocarci, capito? Non era per sminuirlo. In realtà, secondo me, Animal Crossing è è un po' meno vera che non ci sia il sistema delle quest. Ah. Perché in realtà Animal Crossing non è che non ti dà proprio degli obiettivi. Animal Crossing ti dà sì un mondo di gioco alla Minecraft, inteso con le sue regole, cose che puoi fare, che non puoi fare, eccetera, eccetera. Però ti dà degli obiettivi in una maniera diversa. Ti dice di collezionare le creature del gioco, insetti e pesci. Ah, ok. Fare la tua città, di far progredire la città, far arrivare altra gente. Rendere la città più Ok, quindi quelle cose che sento su internet, tipo, ho catturato questo scarafaggio, questo coleottero. Esatto. Quindi non è proprio vero che non c'ha obiettivi Minecraft. E vai, di nuovo, vero? Animal Minecrafting. Però è un pubblico diverso, mentre... Certo. Quelli che vogliono completare la lista della spesa, come diciamo prima, per Skyrim, per Minecraft ci si rilassa, ci si... Si fa amicizia con personaggi immaginari. Ok, mi hai convinto. Ok, guardi, fare amicizia con Nook, va bene, vado. Guardi un rinoceronte che ha una fragola al posto del corno, questa è una cosa vera che... mi stai convincendo, Marco, adesso mi hai convinto. Che va in giro a cercare di catturare una farfalla e ti dici, ok, per un attimo la vita... è più tranquilla e non pensi a quello che dovrai fare domani. È tutto qui. Quindi, però è stata una domanda interessante, perché ogni tanto ci si viene da chiedere, e in tutti quei giochi che hanno così tanto successo, ma che non hanno un vero sistema di quest? Perché alla fine per sistema di quest si intende, poi noi abbiamo analizzato un po' il sistema di quest che del RPG classico, però esistono anche altri giochi che non sono proprio RPG. Tutti quei giochi d'azione, avventura, tutti lì, sparatutto, i giochi di carte non hanno un sistema di quest, però comunque ti danno degli obiettivi da seguire nel gioco. Quello che volevamo parlare erano questi appunto sistemi di quest in giochi più aperti, più open world, in cui diciamo l'obiettivo finale del tuo giocare non è così. Se tu, per andare sul classico, apri Fortnite o apri LOL e fai partire una sessione, tu sai che il tuo obiettivo finale è quello di arrivare di ammazzare tutti gli altri giocatori in Fortnite oppure di distruggere il nucleo della squadra avversaria in LOL, e quello è di per sé definito dal gioco. Tu dicevi quello è nel contesto di una partita è chiuso, è un po' come dire sì, è vero che l'obiettivo di un gioco come Call of Duty è arrivare alla fine della missione o ammazzare il team nemico, ma esistono giochi dove quello è solamente una parte del tutto e si incassa in maniera diversa da una linea, cioè non è una ripetizione o una linea, è un po' un grafo, un albero di roba confusa. Mm-hmm. Esatto, certo. è una guida, è un qualcosa che ti dice, che ti chiarisce meglio quali sono le tue possibilità in questo mondo di gioco, perché non puoi buttare il giocatore in mezzo a Skyrim, neanche l'ultimo Breath of the Wild di Zelda, che è stato molto, come dire, innovativo e coraggioso anche sotto questo punto di vista, non ha buttato completamente il giocatore nel mondo di Zelda. No, esatto. È quello che vuoi, cioè, comunque c'era comunque la quest... uccidi Ganon e salva la principessa. No, ma anche prima, no, c'era la quest, vai a parlare col tizio, vai anche in quel santuario. Perché se le tue meccaniche di gioco sono... cioè, se l'obiettivo del tuo gioco è del vivere l'apertura di questo mondo in tutti i modi possibili, è una cosa che non è che un giocatore alle prime armi può stare con... No, ma anche, ma anche un giocatore che non ha mai giocato quel gioco, che ne sa. Sì, penso. Comunque... Non puoi mettere una persona dietro un volante e pretendere che sappia guidare un'auto, devi comunque dare un po' di linea. E c'è l'istruttore dietro che ti urla, get good, mentre ti schianti contro i pali. Comunque sì. Se premi il pulsante sbagliato, la macchina esplode qualcosa. Come abbiamo già detto, diciamo, le quest che mi sono rimaste più impresse per finire questo podcast, o quasi. Assolutamente. Quelle che mi sono rimaste più impresse proprio perché abbiamo giocato così tanti giochi dove sono sempre più o meno le stesse cose, sono quei giochi che un po' le stravolgono, anche in maniera molto semplice. Partiamo da The Witcher, che è una delle serie più, secondo me, che mi sono piaciute di più degli ultimi anni, inclusi anche i capitoli 1 e 2, che sono quelli un po' più ignorati. Il primo ha dei problemi perché usa un sistema di quest e anche un motore grafico che è ereditato un po' dalla BioWare, che è l'azienda che ha fatto tantissimi RPG famosi, adesso un po' in declino, ha fatto Knights of the Old Republic, e appunto il sistema che usavano era quello di Knights of the Old Republic, che è un gioco di Star Wars dove avevi, capito, allineamento, quest, statistiche, tutte queste cose, combattimento a turni, invece quasi a turni, e invece The Witcher secondo me aveva bisogno di qualcosa un po' più flessibile, qualcosa un po' più, diciamo, come posso dire, che si distinguesse un po' di più, e purtroppo nel primo non era così. Il primo aveva anche il problema che a un certo punto passavi ad una zona nuova e automaticamente tutte le quest che avevi prima venivano fallite, perché non potevi tornare indietro, e il gioco non te lo diceva, che è un problema, abbastanza grave. Però poi i due, per fortuna, hanno cambiato tutto, hanno cambiato il sistema di gioco, hanno fatto una roba loro proprietaria, quindi diciamo, per fortuna il secondo ha una delle quest, secondo me, più belle della saga, che è una quest dove semplicemente hai uno spettro che ti chiede perché, scusate, vi spiego velocemente il gioco, nel gioco siete un Witcher, anzi no, guardatevi la serie TV su Netflix, così capite, fanculo. Con Henry Cavill, quel gran pezzo di manzo, e anche quella gran figa di Yennefer, che si chiama Anna, non mi ricordo. No, me lo chiedo. Però non mi ricordo il nome, non mi ricordo. E praticamente nel gioco siete questo cacciatore di bestie, diciamo, soprannaturali, con dei poteri magici, ma già abbiamo spiegato in altri podcast, quindi fa una descrizione breve. Solito protagonista, capito, eroe che va a ammazzare mostri. E come di consueto in questi giochi, a un certo punto incontri uno spettro e ci parli, perché è una cosa normale in questo gioco fare queste conversazioni, e ti dice: ah, io, guarda, se mi aiuti me ne vado, voglio solamente vendetta contro il soldato che ha ucciso la mia famiglia. E tu effettivamente vedi che lì vicino c'è una casa in rovina con delle tombe, quindi vai nel campo militare che è lì vicino, parli con questo soldato e vedi che è un soldato molto, cioè che lo prendono tutti in giro perché si piscia addosso, cioè molto codardo, molto passivo, remissivo, diciamolo così. Però dici, boh, vabbè, di solito in queste quest gli umani sono cattivi, gli spiriti sono buoni, bisogna sempre, insomma, seguire la quest, finirla e vendicare i morti. Invece porti il soldato lì, lo spirito lo uccide e diventa una bestione molto forte da uccidere, un boss veramente forte, e ti comincia a prendere per il culo perché sei un idiota che gli hai portato lì questo soldato. E effettivamente poi ti dice: missione fallita, quindi già prima cosa puoi fallire le missioni, io non lo sapevo, la prima volta che mi è successo, quindi già ti sconvolge, no? Perché sei tipo quasi metà del gioco, o tipo un terzo del gioco, non mi ricordo, già ti sconvolge questa cosa. Poi rigiocandola, perché io sono un coglione, cioè a me ogni volta che qualcosa mi va bene ricarico la partita e ci riprovo, ricaricando la partita invece di accettare le conseguenze, ho cominciato a ascoltare quello che diceva lo spirito, appuntarmelo, cioè comunque appuntarmelo mentalmente, ascoltarlo bene, andare lì nella casa lì vicino, guardare i nomi sulle tombe e ascoltare quello che mi diceva il soldato, finché non ho capito che quello spirito diceva delle stronzate, cioè ha cominciato a dire cose che non erano vere, che c'erano due figli invece ce n'era uno, che si chiamava in un modo invece quel nome non c'era sulle tombe, cioè basta guardare, basta investigare per capire. E c'è una cosa simile anche in The Wild Hunt, nel terzo capitolo di The Witcher, dove tu pensi che ci sia una quest che sta per diventare, ah, vado lì a ammazzare questa bestia, o vado lì e picchio a sangue questi ubriaconi, e invece la quest si risolve subito, prima di tutto, invece di diventare un'ora, e si risolve con una discussione molto onesta, con una chiacchierata molto onesta, con uno dei clienti di questa taverna, ed è uno dei dialoghi più belli del gioco, dove parlano un po' della loro vita e un po' della violenza, così, ed è semplicemente un dialogo di boh, 5 minuti, 10 minuti, ma è anche quello un premio, cioè è un premio astratto per una quest, non è un'arma, non sono soldi, ma è comunque un modo per premiare il giocatore che non è quello solito. Quindi uno stravolge, in The Witcher 2 un po' stravolge la, come diciamo prima, gli automatismi e anche le conseguenze di una quest, di non ascoltare bene, di non investigare bene, di non fare il tuo lavoro, perché quello è il tuo lavoro in realtà. E un altro ti premi in un modo che non è quello consono, che non è quello solito. E sono due queste che mi sono rimaste talmente, non lo so, veramente impresse, che ancora, cioè, ogni tanto ci ripenso e dico, cazzo, ma... cioè, ci sono talmente tante cose che puoi fare che un po' mi dispiace quando un gioco lo finisco e neanche una volta ha stravolto i sistemi che lui stesso ha impostato, capito? Cioè... un altro esempio che vorrei fare di una quest che ho visto sempre in The Witcher 3 era quella, non so se l'hai fatta anche tu, e spero non sia una di quella a cui ti riferì adesso. È poco... come? Spero che non sia... ah, io ce ne sono due a cui mi riferivo. Ok, una, perché non... una è una secondaria e una è un po' meno secondaria. Quale okay. delle due volevi dire tu? Spero non fosse questa, perché allora forse avevo capito male io. Ma mi ricordo che ce n'era uno in cui, e mi è rimasta impressa perché sconvolgeva un po', diciamo, sì, le premesse che ti eri fatto giocando a questo gioco. Cioè, tu sei un Witcher, quando ti chiedono di fare un contratto, tipicamente finisce esatto, che sì. devi uccidere un mostro o qualcosa del genere. Mentre in questo caso dovevi accompagnare un nobiluomo durante un, come dire, un piccolo tour della zona locale. Mentre lui... questo marchingegno costruito, non ricordo se da lui o da tipo da uno scienziato, suo conoscente, per catturare l'immagine. Sì, sì. Non è quella che dicevo io, quella è un'espansione, però sì. Ok, perfetto, meno male. Meno male. No, era per non ripetersi, ma mi è rimasto impresso perché ogni tanto sono simpatiche vedere queste qua piccole cose che sconvolgono un po' anche il mondo di gioco. Uno non si aspetterebbe di trovare in un'ambientazione fantasy tutto quanto, anche se più scientifica di quelle generali, una macchina fotografica, e invece tu hai accompagnato questo nobile in giro per la mappa a fare foto a pavoni e altre creature. E niente, mi sembrava simpatica, molto meno profonda di Jacopo, però... No, è profonda, perché c'è la serie, è profonda perché non succede nulla. Esatto. E perché è poetica anche solamente facendoti guardare intorno un attimo e facendoti mettere in pausa, cosa che Red Dead Redemption 2 è un gioco western e c'è una quest simile dove tu sei un cowboy che deve accompagnare un fotografo a fare foto di animali, ma in quelle quest tu alla fine devi sempre sparare agli animali, cioè quasi in ognuna di quelle quest finisce con una carneficina di animali, perché non si fidano del giocatore, non gli danno la... cioè, danno un limite alla sua pazienza, che nel caso di Red Dead Redemption 2 hanno fatto bene, perché è una rottura di palle quel gioco, però... no, però è vero, cioè, è profonda come cosa, se ci pensi, cioè, avere... No, anche perché poi, tipo, vabbè, c'era anche un po' di apertura da parte di questo nobiluomo, cioè, aveva una storia abbastanza tragica, quindi era carino anche per quello, ma... mi è piaciuto molto come abbia sconvolto le aspettative del giocatore, che uno dice, questo nobiluomo che mi chiede, mi aiuti a trovare questo animale, ok, si parte a fare il macellaio di nuovo. Invece no, era interessante. Ora non voglio continuare a dare premi a The Witcher, perché già troppa gente ne parla bene, però c'è un motivo se molti lo apprezzano tanto. Un'altra quest secondaria, che invece dicevo prima, che però riguarda personaggi principali. Allora, facciamo così. Se non avete visto la serie di The Witcher e non volete nessuno spoiler, andate avanti di circa 2 minuti nel podcast, perché sto per spoilerarvi la storia. A un certo punto della relazione fra Geralt e Yennefer, che sono, diciamo, la coppia principale della storia, due protagonisti della serie, Geralt fa un desiderio a un genio, di essere, diciamo, per sempre collegato con Yennefer, di avere sempre questa relazione con Yennefer, in parte per salvargli la vita, in parte no. A un certo punto del gioco, invece, questo, diciamo, succede nei libri e nella serie, a un certo punto del gioco c'è questa quest secondaria. Tu l'hai fatta, Marco? Sai di cosa sto parlando? Forse, continua, non è un problema. come dicevamo l'anno scorso. Vabbè, sì, ormai è troppo vecchio il gioco, meno spoiler. Non ci sono più. C'è questa quest che io amo tantissimo, è un'altra quest, però più principale questa. Cioè, comunque non è opzionale, ma è più principale, dove si mettono alla ricerca di questo Jin, sia Yennefer e Geralt insieme. E la quest non è particolarmente difficile, perché è molto rilassata, tranquilla, loro parlano, fanno questo specie di viaggio in barca per ritrovare un sigillo sott'acqua, chiacchierano, parlano della loro relazione, della loro storia finora, di quello che hanno passato. E poi c'è una seconda parte dove vanno in cima a questa montagna, dove c'è questa mezza nave, tra l'altro immagine bellissima di questa nave spezzata sopra una montagna innevata, dove finalmente trovano questo Jin, ci parlano, e il Jin, non mi ricordo se c'è un combattimento comunque breve con il Jin per convincerlo a calmarsi, e il Jin alla fine accetta di sciogliere questo desiderio, di liberarli da questa specie di catena invisibile che continuava a farli incontrare. E questa mi ha sconvolto, non tanto per questo finale, perché dice, vabbè, ok, questa è finita, ma perché poi i due personaggi si mettono a sedere su questa nave e ne parlano, che è una cosa che sembra una cazzata, cioè dici, vabbè, ok, ne parlano, però succede raramente che i personaggi parlino di quello che è appena successo e che si chiedano da dove andiamo ora. Cioè, non è raro trovare questi momenti, e il modo con cui ne parlano è anche molto, diciamo, strano da trovare in un gioco del genere, perché ne parlano come, ok, non sappiamo adesso se stiamo insieme perché c'era questo desiderio che ci legava, o se c'era qualcos'altro. È comunque una relazione complicata, e non la risolvono lì. Cioè, non è che si risolve lì, dice, ok, no, ci amiamo. No, è vedremo. La risposta è vedremo, la risposta è non si sa. È una cosa complicata. E ogni volta che ne parlo mi emoziono, perché è veramente un modo, purtroppo, raro di concludere una quest e di cambiare una relazione fra due personaggi e dire è complicato. È una cosa che veramente si vede poco, specialmente in giochi così grandi, così costosi. Mi stai dicendo che quando gli scrittori ci sanno fare, alla fine anche una quest, le quest vengono bene, ed è una cosa che non succede esatto. Sempre purtroppo. Perché dipende tanto da quello anche, dipende tanto anche dalla storia, da quello che dicono, per me. Magari per un altro giocatore no, però per me è una parte molto importante della quest, qual è la storia, qual è la conseguenza per i personaggi, come cambiano le relazioni, cioè dopo questa quest. E avere un gioco che ne parla è figo, ma altri giochi lo fanno, anche Assassin's Creed Origins, Deus Ex, anche quelli, cioè, di cui hai parlato tu, ovviamente, New Vegas, eccetera. E niente, queste erano le quest che mi sono più venute in mente per come sono state risolte, eccetera. Così, non lo so. Ci sta a citare anche qualcos'altro, voglio dire, The Witcher assolutamente scritto in maniera eccellente. Ovviamente quando hai dei buoni scritti, una serie di scrittori, ottime quest, è normale, non normale, è molto probabile che anche molte quest siano fatte molto bene. Va data, abbiamo buttato tanta merda su Skyrim prima, però va data che anche Skyrim e altri giochi della Bethesda, assolutamente ci sono quest che rimangono impresse. Beh, certo, sì. A me in Skyrim sono rimaste tutte impresse, non tutte, ma molte di quelle dei principi daedrici. Si dice daedrici, non mi ricordo come si pronuncia in italiano. Sì, probabilmente sì. E che erano molto originali. Ce ne sono state di originali anche in Oblivion, che ho giocato un pochettino, ma siccome, come dire, c'è la quest del dipinto di Oblivion. Il dipinto di Oblivion, quella è fanta. Non so perché. È impressa a fuoco nella mia mente. Anche a me è rimasta veramente impressa. C'era quello del Murder Mystery, come si dice in italiano, della casa, sì, dell'omicidio, c'era quel delitto nella casa, che è rimasto anche quello molto impresso. Noi adesso siamo, sì, stiamo sparando cose uno dopo l'altro, ma sono più... No, ma Oblivion, no, Oblivion è vero, mi ha ricordato che aveva veramente un miliardo di quest. Belle, yeah. Questi ovviamente sono riferimenti, se gli ascoltatori poi sono interessati i giochi, andate a comprare i giochi. Cattiveria. Ormai, quanto stiamo parlando? Tipo, ormai quasi 2 ore, quindi sì, arriviamo... arriviamo al punto. Esatto, un'ultima cosa, ovviamente anche Fallout, Fallout New Vegas soprattutto, ne ha di molto bella. Adesso ovviamente non me ne sta venendo in mente nessuna, perché come giusto che sia, ma mi ricordo che in Fallout New Vegas ce n'erano un paio che mi hanno veramente impressionato. C'era quello dei goal che volevano utilizzare, che volevano cercare di andare nell'universo di Fallout, perché in sintesi i goal sono questi esseri umani mutati che resistono alle radiazioni. E c'era questo gruppo di Ghoul che cercava di raggiungere la Luna come il loro paradiso finale. Ed era molto interessante come questa. C'è anche un po' riflettere su... No, cosa mi hai fatto ricordare? C'era una quest di Oblivion, mi sembra, dove tu ammazzavi dei Goblin e alla fine scrivi che erano persone. Che erano... Che tu vedevi dei Goblin, ma in realtà erano persone. Oddio! Cos'era quella? Vabbè, devo cercarlo dopo. Mamma mia. Sì, insomma, su questo, soprattutto in giochi RPG di grande portata, come... a volte alcuni errori, ma delle vere gemme come quest. Anche hai detto in questi giochi di grande portata ci sono tanti errori, ma anche tante gemme? Esatto. Ok. Chiedo scusa se questa connessione maledetta. Ah, vabbè, tranquillo. Sì, alla fine se si trova un bravo scrittore che sappia scrivere delle buone storie, si riesce a raccontarla bene questa storia con il proprio sistema di gioco, alla fine questa resta impressa nella mente. E giusto per fare un'altra citazione, in Dark Souls vorrei citare quella di Sigmeier di Katarina, che è una delle quest più interessanti di questo personaggio, che ha tutto un, come dire, ha una sua redenzione poi anche alla fine. E mamma mia, che tragedia, è interessante come è stato scritto il personaggio. Altri esempi però così su due piedi stanno in questo momento. Mi dispiace averti messo così sulle spine. No, ma perché figurati. Ma in realtà neanche a me, cioè a me sono venuti gli esempi più banali di The Witcher perché ci penso continuamente, ma ovviamente se mi metto qui a pensare a, vabbè, appunto a quelli di Oblivion che mi hai fatto tornare in mente tu, ma anche a quest di Fallout 3 che mi sono rimaste impresse, tipo la quest con il mutante, quello simpatico che ti aiuta, cioè ci sono comunque delle quest interessanti in ogni gioco, in quasi ogni gioco insomma di questa portata, di solito si spera. E quindi prima di siamo arrivati verso la fine, a questo punto è arrivato il momento che stavo aspettando. Kept you waiting, huh? O abbiamo ancora qualcosa? Dopo questa sigla che ho messo in post-produzione, direi è cominciato il momento. È arrivato il momento del momento Kojima, no? Esatto. Guarda, mi sa che neanche lo metterò più nella lista di giochi citati, che tanto sono sempre quelli. Cioè, se ne esce uno nuovo, magari ne parliamo. Siamo sinceri, cioè... Kojima, grand'uomo, poi alla fine però, cioè, le serie che ha fatto per ora sono, tra virgolette, una principale, adesso si sta aprendo un po' a fare altra roba, però diciamo che Kojima è conosciuto principalmente per quella serie lì, ed è sempre di quella serie lì che parliamo oggi, per cui parliamo appunto di Metal Gear Solid. Facciamo un esempio positivo, secondo me, e uno negativo che poi è peggiorato, ok? Allora, io voglio fare l'esempio positivo perché sono un pezzo di merda. E quindi mi prendo la parte felice. Ricordi felici di io che giocavo a Metal Gear Solid Peace Walker sulla mia PSP, ormai distrutta e esplosa, perché ho la batteria che è diventata un palloncino. Perché Peace Walker era un gioco per PlayStation portatile, quindi un gioco fatto apposta per essere... appunto gioco su una console portatile che spesso ha delle sessioni più corte, e quindi aveva spezzettato anche per ragioni di capacità, perché ovviamente la console portatile non è che fosse questo potente, un po' spezzettato i livelli, spezzettato le missioni, e quindi tu... Sì, effettivamente, diciamolo, diciamo con chiarezza, i primi giochi dall'1 al 3 della saga di Metal Gear Solid erano tutti abbastanza lineari, non c'erano vere e proprie, come dire, c'erano obiettivi nel gioco, ma la storia era una. Non c'erano delle missioni secondarie, c'era quella struttura e il giocatore che viveva la storia affrontando i nemici che si trovava di fronte, o per meglio dire schivando anche i nemici. Poi erano aperti in certi modi, potevano ottenere dei bonus, ma non c'erano vere e proprie missioni secondarie. No, esatto. Conker, che era appunto questo cambio di sistema, la questione era cambiata e Kojima ha ristrutturato un po' tutto il gioco. Invece di un'unica storia lineare, ha creato questo sistema di missioni, sia principali che secondarie, che servivano appunto a ottenere potenziamenti per i bonus. E ora, il problema è che non eravamo, cioè, no, il problema, scusami, non è un problema. La cosa è che su un sistema portatile questo funziona molto bene, perché tu dici, ah, lo prendi, faccio una missione, 10-15 minuti, erano molto corte alcune, e poi magari torno alla Mother Base, che è una specie di quartiere generale, lo potenzio, faccio ricerche, cioè era molto portatile, molto, cioè, stile gioco portatile. E alcune missioni erano divertenti, c'erano missioni dove dovevi fare cose un po' strane, tipo uccidere un T-Rex, missioni dove dovevi appunto estrarre dei combattenti nemici con dei palloncini, cioè cose comunque strane, carine, divertenti, potevi potenziare cose, ottenere oggetti, eccetera. E per il sistema che era, per come era fatta la mappa, era carino. Il problema era principalmente che la mappa era molto, molto, molto frammentata. Cioè, diciamo, le singole mappe erano molto piccole, quindi potevi fare poco, diciamo, come a livello di design. Quello che fosse più per necessità tecniche. Sì, esatto, indicazioni tecniche. E verso la fine del gioco diventava molto c'era molto grinding, tra virgolette, per ammazzare dei nemici ci voleva molto tempo, per ottenere delle ricerche di oggetti nuovi ci voleva molto tempo, quindi un po' l'ho abbandonato. Però anche la limitazione di poter fare una missione alla volta ci sta, perché duravano poco, cioè, eccetera. Ok. Quindi diciamo che questa cosa è tornata. Ah no, ti volevi continuare. Forse no, no, no, volevo dirti, diciamo che questa cosa è poi continuata, però ora passo la parola a Marco, perché... Beh, diciamo che è stata anche alla base di Metal Gear Solid 5, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, che ha seguito, diciamo, questa struttura di gioco. E io non so, cioè, io non ho obiezioni, sinceramente, in The Phantom Pain, cioè, secondo me ci stava, era una metodologia... Poteva essere fatto in modo diverso, assolutamente, però secondo me non è venuto male come questo... No, no, no, però diciamo in The Phantom Pain, secondo me l'hanno sfruttato per fare una cosa che mi è rimasta un po' indigesta. Mm. E cioè riproporre le stesse missioni due volte della storia principale, facendo un po' perdere importanza, non lo so. Secondo me. Sì, lì purtroppo non sapremo mai com'è andata, potrebbe essere stato la Konami che ha spinto troppo. Ah no, sicuro, certo, sicuro l'ha fatto Konami. Ovviamente purtroppo il sistema è degenerato per... ha avuto, come si dice, la critica principale è che molte missioni venivano riproposte quasi praticamente uguali, se non aumentate un po' di difficoltà, e c'erano... Sì... Dopo i primi capitoli della storia, la qualità delle missioni calava precipitosamente, ma lì, come diciamo prima, non sapremo mai se, tra virgolette, è stata colpa della Konami o di Kojima stesso, anche se... È probabile che sia stata la Konami, Non volevamo proprio dirlo. Non voglio dire che Kojima è un santo, però... Diciamo, sì, è probabile che sia stata la Konami a dire che c'era bisogno di più contenuto. Ma allo stesso tempo anche a dire non vogliamo darti altri soldi. Quindi la soluzione, la scelta Kojima, ma era un po'... Quindi la Konami non sponsorizzerà mai questo podcast, ma ce ne faremo una ragione. Poi volevo dire che poi è evoluto... Però volevo giusto dire che secondo me funzionava. Perché tutta la cosa funzionava perché tu avevi ancora il concetto Mother Base, avevi questa struttura che poteva essere potenziata, il tuo esercito che poteva essere espanso, i varie nuove armi che potevi ottenere, nuovi sviluppi, nuovi soldati, nuove possibilità, eccetera, che andavano a influire alle missioni successive. E tu avevi questo senso di progressione, di sviluppo, di potenziamento durante tutto il gameplay, anche se poi le missioni effettive risultavano un po' più schifose verso la fine. Questa cosa si è evoluta, come quello che volevo dire io, in Death Stranding, l'ultima opera del maestro, per così dire, l'ultimo videogioco di Kojima, in cui il protagonista Sam Bridges, oltre alle sue importanti da portare a termine, ha a disposizione anche missioni secondarie, ovvero consegne a avamposti più isolati, più nascosti, tutte per ottenere cose in più, premi, potenziamenti, eccetera. Ma che in questo caso, a mio parere, non funziona bene come in Metal Gear Solid. Principalmente perché non abbiamo più l'idea della Mother Base, questa cosa da potenziare, questo luogo da rendere più potente, che ci rende anche a noi. È vero che alcune missioni sbloccano potenziamenti come armi. Anche molto fighi. Sì, assolutamente, anche molto fighi, armi, nuovi mezzi per muoversi nella mappa, cose di questo tipo. Però le armi molto spesso alla fine le utilizzi fino a un certo punto, perché l'idea del gioco è più, anche qua, molto, forse anche, non dico molto più stealth, perché non è molto più stealth, però l'idea del combattimento è scoraggiata, e essendo un gioco in cui la parte con i nemici sono molto più ridotte, quando il combattimento c'è lo si finisce in un tempo abbastanza veloce e poi dopo ritorni a camminare, perché una pistola da portarsi dietro alla fine è solo peso in più. Esatto. Quindi le armi le senti poco utili, i veicoli sono probabilmente la cosa più interessante, i potenziamenti per gli esoscheletri, per le gambe di Sam, cose del genere, sono probabilmente la parte più interessante. E poi gli altri contenuti sbloccabili sono principalmente cose estetiche, gadget e ologrammi da mettere in giro per la mappa per di gioco, vestiti e maschere per Sam, che sono cose carine, ma che tolgono un po' quella sensazione di essersi guadagnato qualcosa per aver portato le pizze al perché, mamma, ecco, un'altra, mia, un'altra quest che si potrebbe definire interessante era quella della consegna in Death Stranding, ma la consegna della pizza, è vero, però no, quelle lunghe e come dire, che ti intrattengono fino a un certo punto, perché alla fine puoi camminare per una mappa con un livello di, come dire, eccitazione e intrattenimento solo fino a un certo punto, perché alla quarta volta che vedi la stessa roccia sul percorso per tornare in tua base. Senti, sto sentendo un po' troppa critica di Koji, ma qua chiudo tutto. Però questo secondo me ci stava, perché le quest secondarie in Death Stranding erano state fatte per dare queste cose sbloccabili e carine al giocatore e per aumentare il numero di ore di gioco, però era per quello, cioè era per aumentare il numero di ore di gioco. Alcune quest secondarie non erano così, non sono interessanti, sì, sì, cioè non erano interessanti come quelle principali, quindi perché alcune sono interessanti per il, diciamo, per i personaggi, ma dopo un po' che non senti più nulla, hai solamente roba creata a random, cioè non hai quell'interesse di continuare a consegnare cose a una persona che non vedi neanche, cioè che non hai un aggiornamento di come sta, di cosa dice, cosa succede, cioè non lo so, un po' ti rompi le palle. Poi c'è anche il sistema, tipo, come dicevamo, delle quest generate dinamicamente, come fatto meglio che in Skyrim probabilmente. Anche lì i premi che ottieni sono un aumento del punteggio complessivo del facchino, come lo chiamano in italiano, del corriere delle consegne. Amazon, il corriere Amazon, e poco altro, a parte avere la stella viola alla fine, non ci sono troppi premi, non ci sono troppi, non hai ricerche in cui investire, armi da sbloccare, carri armati da cavalcare come in 5, quindi questa è una delle critiche che sentirete almeno da parte mia per... No, allora Death Stranding è bellissimo, è praticamente la vita vera adesso e, e le quest secondarie sono stupende, basta, non è vero, sono stupende. Ah, vabbè, va bene, detto questo direi che ci siamo. Penso che la nostra quest di ci è giunta al termine e non ci resta che salutarvi. Non ce l'avevamo neanche presentati oggi. Io sono Marco. Io sono ancora Jacopo. E detto questo, continuate a giocare. Alla prossima, cari. Ti saluto.